che avevamo presentato svariati libri, uno di Patrick e un altro di Gianni, sulla Beat Generation. Questa sera invece Gianni si presterà a questa intervista per parlarci del sufismo, del libro L'interprete delle passioni di Ibn Arabi, e magari vi spiegherò anche il perché abbiamo deciso di invitare Gianni De Martino. Invece, per quanto riguarda Christina Unterberger, è stata veramente una sorpresa, perché Christina gravita su Genova. Infatti, devo dire sempre, non è per ripetermi, ma fa parte della nostra, diciamo, trasmissione, l'Anna Maria Farabi sempre ci segnala poeti e scrittori di estremo interesse, e quindi Cristina fa parte di questo, diciamo, di questa lista di persone che ormai abbiamo nel cuore e speriamo presto di riuscire a far passare tutte in radio. Dicevo, Cristina ha partecipato a Genova a una lettura particolare organizzata da Genova Inedita, quindi ricordo Tina Cosmai, organizzatrice, grande organizzatrice, amica di Anna Maria Farabi, e quindi grazie a Anna e a Tina ho conosciuto Cristina. Cristina questa sera, poche parole poi per dirvi chi è, ma soprattutto durante l'intervista scopriremo un po' il suo fare. Sappiate semplicemente che, così a grandi linee, traduttrice e poetessa, si occupa da anni di parole e quindi della loro magia. E questo direte perché? Perché attraverso addirittura lo studio della Kabbalah e dell'ebraico, più di recente si occupa della. Voilà. Grazie per questa segnalazione. Si occupa anche della loro natura più essenziale e spirituale, infatti le lettere e il silenzio che le separa una dall'altra. Ha pubblicato svariati libri, tra cui ricordiamo quattro poesie, casa editrice De Filippis, Incontri, casa editrice Lieto Colle, ed Everim, casa editrice Book Editore. Ringraziamo Book Editore per averci spedito questa sera il libro d'Everim. E ringraziamo anche Lieto Colle, che è nel nostro cuore, Diana e Michelangelo Camilliti, che, come sapete, ha partecipato alla prima pagina di Anna Maria Farabi, alla tela sonora. Ancora poche parole prima di mandarvi alcuni brani che sono stati registrati. Cristina è bilingue, quindi la sua attività professionale di traduttrice la porta a parlare molto bene, quasi forse meglio, lei dice, dell'italiano o il tedesco, quindi le registrazioni, sinceramente non mi ricordo se tutte e sei sono in tedesco, comunque alcune sono in tedesco. Appassionata di viaggi, sia reali che immaginari, tiene conferenze sul tema dei viaggi letterari, soprattutto con destinazione mitteleuropea, ed è per questo, tra le altre cose, che l'abbiamo invitata alla tela sonora. La più recente fatica è la realizzazione del suo sito My Life Tree e del blog L'albero delle parole. Infatti poi chiederò, ma io sono andata su questo blog, il perché dell'albero, e l'albero in effetti, perché infatti l'albero, perché l'albero, il corpo dell'essere umano, viene da sempre descritto nei testi sacri come un albero che a livello ontologico è rovesciato. Infatti le radici sono in cielo e i rami a terra. Nella vita di tutti i giorni l'uomo e la donna però non sono che degli alberi, talvolta rigogliosi, altri cavi con radici profondamente affondate nella materia e il tronco scosso dai venti se non dalle tempeste, e i rami più alti sono avvolti nelle nebbie. Quindi l'albero della vita, per quale motivo l'albero della vita? È il ricordo delle radici celesti che illumina la coscienza dell'uomo indicandogli la via del ritorno. Sappiamo tutti che il programma nato un anno fa con Brussellando e poi ampliato con la tela sonora per quanto riguarda la poesia, ha un po' come obiettivo quello del viaggio, un viaggio che non mi stancherò mai di ripetere, sappiamo tutti quando è iniziato, ma non e soprattutto il motivo per cui è iniziato, ma non sappiamo dove ci porterà e come evolverà. Quindi l'albero della vita, o albero, come lo chiama lei, sefirotico, contiene in sintesi i più importanti insegnamenti della Kabbalah. È un mandala altamente simbolico e astratto, composto da 10 potenze, che sono le intelligenze, disposte lungo 3 pilastri. Secondo i maestri, l'albero della vita è il programma secondo il quale si è svolta la creazione. e al contempo il cammino di discesa delle anime e il sentiero di risalita lungo il quale l'uomo e il creato possono ritornare alla fonte, a quell'uno da cui tutto ha inizio e a cui tutto ritorna. Quindi, che dire, che aggiungere? Nulla, che questa così metafora, o comunque questa idea dell'albero con le radici rivolte all'alto, che sia anche per la tela sonora un modo per captare sempre più nuovi personaggi, nuove creature, nuovi poeti, nuove anime che gravitano in questo lungo viaggio. Ricordo che la tela sonora è un'idea di Anna Maria Farabi, nata appunto dalla necessità di così raccogliere e far gravitare intorno alla tela del ragno metafisico le voci italiane. Ricordo ai nostri amici che siamo quindi sulle frequenze di 101.9 di Radio Alma. Ringraziamo Radio Alma per questa possibilità quindi di portare la nostra poesia italiana all'estero. E quindi prima di contattare Cristina vi mandiamo i testi e poi magari anche ancora due parole sul suo libricino, quattro poesie che ho ricevuto, che è carinissimo, con quattro disegni che sono ex libris, e poi vi dirò anche da chi sono stati disegnati. Bene, Gentian, se vuoi mandare i testi. Era di maggio, forse del 17 o prima, che importa. La traccia è perduta, cancellati i solchi, ignoti i volti, a me che racconto, a te che ascolti. Persi all'amore, tra i rami di una primavera vestita di eterno, le loro anime si appartennero, nel sigillo umano della carne, un'ultima volta. Di porpora un rivolo scendeva a fecondare la terra grama, dal ventre ignaro del doloroso seme nacquero i fiori più belli, e fu così che la morte di malavoglia si piegò all'amore ancora una volta. Il vessillo del futuro teso al vento, l'angelo della storia sempre avanza. Devarim, parole e cose. Scendono a creare ciò che non era, sì come neve sulla muta terra. Sono solo parole. Cose sparse nel nulla da prima che la neve esistesse. Grido primordiale. Dedicata a Ludwig Kirchner, 1938. Giallo come il veleno, il dolore brilla su pallide tele. Trascorso è l'oro della giovinezza, soffocato nel muschio marcio. Acerbo il tempo pende da rinsecchiti rami. Un grido al di là del ponte spacca l'oscurità. Il futuro gocciola, rosso sangue su sipari ciechi. Der Urschrei, Ludwig Kirchner gewidmet, 1938. Giftgelb schimmert der Schmerz auf blassen Kulissen, verflossen das Gold der Jugend, erstickt im faulen Moos. Unreif hängt die Zeit an dürren Ästen, ein Urschrei jenseits der Brücke spaltet die Dunkelheit. Die Zukunft träufelt blutrot auf blinden Kulissen. Rabenkind. Am Ufer der Nacht spürte er, wie sich das Leben zurückzieht, Atem nach Atem, taumelnd ins Unbekannte, feuchten Frauenaugen so ähnlich, der Weg ist schmal, wie Adern einer Greisin, wie ein wirres Gewächs von Tagen und Stunden. Es schlägt die Pendel, deine Zeit. Der Kirchturm im Dorf schneidet den Himmel, wie immer. In der Synagoge ruht das Buch, in der Brust das Herz. Und du hast noch keine Antwort. Wer bist du, Rabenkind? Weise eines fernen Vaters, es ist Zeit. Der Ort ist nah, gleich hinter dem letzten Atem. Il bambino dei corvi. Sul ciglio della notte sente la vita ritirarsi, respiro dopo respiro, passi incerti verso l'ignoto, così simile ad umidi occhi di donna. La via stretta come vene di vecchia, un folto groviglio di giorni e di ore. La pendola batte l'ora tua. Il campanile della chiesa fende il cielo, come sempre. Nella sinagoga riposa il libro, nel petto il cuore, e tu non hai ancora una risposta. Chi sei, bambino dei corvi, orfano di un padre lontano? Il luogo è vicino, dietro all'angolo dell'ultimo respiro. Storia d'amore. Mi chiedo quale cielo vesta ora i tuoi pensieri, mentre ancora ti cerco tra le spine di rose non colte, amore mio che fosti e sei. In ogni cielo, fosse il più alto, là dove i saggi macinano la manna, ti cercherò, ti troverò. E allora amore ancora sarà, amore sarai, oltre la stretta parola che il cuore più non conosce. Liebesgeschichte. Ich wundere, welches Gewand deine Gedanken nun tragen, da wo ich dich suche, inmitten nie gepflückter Rosen, Geliebter, der du warst, Geliebter, der du bist. In jedem Himmel, sogar dem Allerhöchsten, da wo die Weisen die Manna wahlen, werde ich dich suchen, dich finden. So wird es Liebe noch sein, wirst du, Geliebter, noch sein, jenseits der engen Sprache, die das Herz nicht mehr beherrscht. Übermorgen. Wildes Gewächs ragt hinauf in die Bläue, am Boden das Gewesene, lahm in der Stille. Jenseits der Menschen Träume funkelt die Zukunft, Gestirn in dunkler Leere, so nah wie noch nie. Dopodomani. Selvatico verde si innalza nel blu cupo. A terra ciò che è stato, inerte nel silenzio. Al di là degli umani sogni, splende il futuro. Astro nell'oscuro vuoto, prossimo come non mai. Benissimo, sei con noi, Cristina? Sì, ci sono. Ciao. Allora, abbiamo terminato adesso di ascoltare alcuni testi che avevi registrato e io non ho ancora detto quali sono, cioè a grandi linee ho detto quali sono i libri che tu hai editato, però magari se vuoi essere più precisa e dirci tu, le poesie che abbiamo ascoltato credo che siano dal tuo tratte dal libro Devarim. Sì. Ok, e poi mi avevi scritto anche i testi, diciamo, sia in lingua italiana che in tedesco, diciamo i titoli delle poesie. Sono tutti tratti da Devarim o ci sono delle poesie inedite? Dunque, allora c'è qualcosa di inedito. Ok, sì. Benissimo. Una storia d'amore? Sì, infatti, Liebesgeschichte. Liebesgeschichte, che in realtà è nata in tedesco. Perché ci sono alcune poesie che così nascono in tedesco e allora io di professione sono anche traduttrice, mm-hmm. però nel caso delle poesie non è che mi traduco, mm-hmm. le ripenso. Ecco, infatti mi sembrava doveroso fare questa precisazione, perché è vero che la traduzione di una poesia in un'altra lingua non può e probabilmente non riesce a dare lo stesso significato, perché le parole, visto che tu studi moltissimo le parole, non hanno lo stesso suono e a volte mancano proprio le parole tradotte. Quindi mi sembra, hai fatto bene, vedi, non ti ho dovuto neanche fare la domanda. Sì, mi prendo questa libertà, tanto nessuno può dire no, qui non hai tradotto bene. Sì. No, perché è così. E senti, allora, io ho detto anche, ho parlato un attimino del tuo blog e della tua ricerca che fai della parola, ma soprattutto anche di questo concetto dell'albero, che è un l'albero della vita, lo chiami anche albero sefirotico? Sì, esatto. Ecco, che contiene in sintesi i più importanti insegnamenti. Dicevi che in effetti è come un mandala composto da 10 potenze che sono le intelligenze, quindi già il 10 mi fa pensare un po' ai comandamenti. Sì. Insomma, vuoi raccontarci un attimino tu con le tue parole, perché credo che sia importante ascoltare la tua voce. Un discorso estremamente lungo. Niente, come dicevi tu, queste 10, ecco, si potrebbe dire che sono anche le 10 parole creatrici, no? Uh-huh. Di Dio, perché Dio crea il mondo con la parola, no? Uh-huh. Poi quindi sono anche però i pianeti, sono 10 potenze dell'anima, quindi 10 potenzialità che ha l'essere umano, no? Uh-huh. E che sviluppa, può o non può sviluppare, ecco. Ed è un mondo assolutamente fantastico, molto legato al concetto della parola, mm-hmm. perché la parola va svelata, no? Man mano la si fa esplodere ed escono altri significati, no? Certo. Questo è molto collegato ovviamente alla lingua ebraica, perché l'albero della vita è l'unica forse raffigurazione che viene usata nella mistica ebraica. Ecco, quindi il tuo, sì. Scusa se ti interrompo, è importante. Io ho letto che hai nel tuo blog ci sono svariati disegni o simboli che poi al lato tu spieghi con un piccolo trafiletto. Per esempio, io guardavo quello sull'albero, c'è il trafiletto di Keter, la corona, e tantissimi altri che sono, se vogliamo, forse un modo, un involucro, un guscio dentro al quale tu hai inserito poche parole per dare una spiegazione. Vuoi parlarcene tu, magari, questa simbologia, questo disegno che è così importante per te? Allora, guarda, la definizione è proprio la cosa più difficile, nel senso che nel momento in cui tu definisci, mm-hmm. Impedisci, racchiudi dei significati che sono in realtà infiniti. Mm-hmm. Quindi l'albero della vita è anche uno specchio, quindi può essere benissimo anche il corpo umano. Quindi Keter è la testa, Chokmah è la parte destra del cervello, Binah la parte sinistra, quindi il nostro padre, nostra madre. Quindi è veramente tantissimo e sono conoscenze molto legate all'aspetto intuitivo, no? Mm-hmm. Quindi non c'è una difficoltà intellettuale, si accendono come delle luci, ecco uno degli esempi, ecco. È questo, che si accendono delle luci e si creano dei collegamenti. Infatti la parola Kabbalah significa, è un verbo, le kabel, che significa ricevere, ricezione, mm-hmm. e la parola più affine in italiano è cablaggio. Cioè, è la stessa cosa, no? Si creano dei cablaggi che ci permettono di collegarci anche al mondo a venire, no? Questi sì. Mondi spirituali che esistono anche adesso. E poi mi sono permessa di stampare la tua definizione di bellezza, Tiferet. Tiferet, scusa per la pronuncia, che è il cuore dell'albero, cioè dove la grazia e il rigore si fondono per dare vita ad una forma di amore più elevato, che trascende le differenze. Quindi questo mi piace molto, perché già la trascendenza e l'amore elevato potrebbe essere un po', se vogliamo, l'obiettivo di questi 10, come dicevi te, 10 intelligenze, ma anche 10 possibilità, potenzialità dell'uomo, che decide a priori, probabilmente, o perché non si capisce ancora bene quale sia effettivamente il mistero dell'uomo, decide se seguire o meno. E quindi di questi 10 orientamenti lo potrebbero portare a quello che è il cuore dell'albero, quindi la massima elevazione. E tu dici ancora che raggiungere Tiferet significa comprendere l'infinita bellezza della creazione fondata sulla verità. Quindi la poesia, che di vera bellezza si nutre, è l'armonia tra l'ispirazione e la forma, ma anche e soprattutto la capacità di essere un ponte fra l'umano e l'assoluto, che trovo meraviglioso, no? Il discorso del ponte. Il ponte, beh, ma anche nella nostra tradizione più alta, no? Cioè, voglio dire, Dante, cosa ha fatto Dante ai massimi livelli? Ha collegato, il ruolo del poeta era quello, specie... in quei tempi lì, no? Sì. Di fare da ponte, il pontefice tra ciò che è in alto e ciò che è in basso. E poi invece tu dicevi il lato destro, il lato sinistro, sì. Il maschile e il femminile, che poi appartiene a tantissime tradizioni, no? Sì. È lo yin e lo yang. Infatti. Cioè sono, come dire, concetti che con parole diverse, con lingue diverse, hanno tutte le culture. E più si va in profondità e più ci si accorge di dire la stessa cosa. La stessa cosa, si fa una ricerca spirituale con concetti diversi, con lingue diverse, no? Quando l'uomo non si comprende più, la Torre di Babele, questo tragico simbolo degli esseri umani che hanno 70 lingue, ne avevano una e poi di colpo 70. Caspita. Se non si parla più la stessa lingua, come si fa a comprendersi? Però, e diceva anche Wittgenstein, no? Che di Grenzen meine Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Sì, le frontiere. Le barriere, i confini, certo, della mia lingua sono i confini del mio mondo. Mondo. Oggi è cambiato molto, però... Ecco, quindi più lingue si conoscono e più si aprono porte. È verissimo questo, è proprio ogni lingua è meravigliosa. Certo, e parlare anche le lingue significa non solo capire il popolo, ma anche capire la cultura, perché con le parole si esprimono dei concetti che per certe lingue sono più importanti, per altre meno. E per altri, sì, ma ognuna è un mondo, è una cosa meravigliosa, cioè... Non so, ascoltare Pessoa in portoghese è un'emozione che tu, non, se non sei portoghese, non la puoi provare. Cioè, si carica di questo aspetto, no? Di queste sfumature magnifiche che ogni lingua ha, chi per un verso, chi per l'altro, la sua personalità, no? Giusto. Senti, e per dare allora alla parola un valore più ampio, che non sia quello di Grenzen, quindi di confine, ma come la diversità arricchisce, quindi le differenze, tutto ciò che la parola esprime, la tua ricerca che cosa ti ha portato a capire, e se hai ancora sempre più voglia di scoprire questa ricerca della parola, che cosa, dove ti ha portato? Dove mi ha portato? Beh, mi ritengo all'inizio assolutamente, e mi fa rimanere in questa dimensione della domanda, che è la dimensione più bella, dell'interrogarsi, perché la risposta è di nuovo una cosa che chiude, no? Allora, la risposta tacete. E cosa vado a cercare, no? È questo concetto di fare un cammino di ricerca, no? Che poi chissà dove ci porterà. Noi tutti quanti, no? Non... Adesso, come dire, anche questa, alle volte si usano anche dei termini un po' banali, no? Questa era dell'acquario, no? Ma in realtà l'umanità è lì che deve andare, no? Deve, tra virgolette, ma la sensazione di avere un traguardo comune, di tornare in qualche modo ad una lingua. Quindi però tu dici che la parola, effettivamente, una volta che uno ha trovato una risposta, in qualche modo chiude la porta e limita, però non pensi che invece sia un percorso quindi a livelli, nel senso che a un primo livello ci può essere una risposta, poi una volta chiusa quella porta effettivamente se ne può aprire una seconda, una terza, una quarta, fino a quando ci si muove in elevandosi, nel senso che è per gradi anche. Io credo che la conoscenza, almeno questa è un po' la mia filosofia, oggi sono arrivata a conoscere un tot di cose, domani sicuramente ne apprendo, ne capirò e ne conoscerò altre. Quindi la parola, in fin dei conti, o il fatto di darsi anche una risposta, è per chiudere un po' il cerchio, anche per dare una parola fine a un cerchio e delimitare un po', davvero, sì, ma per passare poi a qualcosa di diverso. Cioè può essere anche la fine, ma anche l'inizio di un altro percorso. Sì, è un po' come l'opera d'arte, no? Cioè, uh-huh. Quello dell'opera d'arte è soprattutto il bozzetto, il momento creativo, no? Sì. E quando tu hai una cosa scritta e finita, è come appoggi il pennello e la porgi all'altro, no? Uh-huh. E quest'altro legge qualcosa che tu magari non hai, cioè per certi versi non è più tuo, e prende una sua strada. Certo, donarla agli altri, un po' come la poesia, no? Si dice che il poeta dia in pasto le proprie parole al mondo, i propri sentimenti, le proprie emozioni. Esatto. E quindi anche la definizione, qui il poeta voleva dire questo, io veramente rifuggerei assolutamente da quelle, perché... Il critico. Invece secondo me alle volte è molto furbo per velare le cose e poi magari fa solo lui quello che voleva dire. No? Beh sì, questo ripetiamoci, Dante è stato un maestro. Senti, allora ci vuoi leggere invece tu magari prima di dire ancora qualcosa su questo libro bellissimo, che è il libricino che tu mi hai gentilmente inviato, Quattro poesie, che trovo splendido perché sa come di lettera d'amore, perché ci sono dei quattro disegni di due di donne, anzi poi c'è un bellissimo disegno di Villoresi, sì, sì, che è ha tutta una simbologia, perché ci sono due ali, sembrano anche qui lo yin e lo yang, perché hanno conformazione una concava e l'altra convessa, e poi c'è una donna che sembra una musa con un colore giallo particolare. Ci vuoi raccontare un attimino com'è nata l'idea di questo libricino, Quattro poesie? Guarda, questo è stato veramente il mio esordio. È stato, mi sembra, nel 99, credo. Beh, qui dice stampato nell'anno giubilare 2000, per gli amici del cuore. Però diciamo, ecco, quelle poesie erano finite nel 99, poi sicuramente sono stampate nel 2000. In realtà quel libricino lì è un ex libris, ed è stato stampato da questo signore che è un grande appassionato di ex libris, così quasi, come dire, così, ma le faccio io questa cosa qui, le stampo io. E quindi è stata una cosa proprio, come dire, quasi casalinga, piccolina, no? Sì, che molto... in realtà io regalo agli amici. Agli amici del cuore. È in vendita, no? Sì, sì. E io quindi te l'ho aggiunto a Devarim, così, invece di mettere magari un biglietto da visita, all'ultimo momento ho detto, no, aspetta. Grazie. Mando anche perché ci sono due piccoli errori di stampa, quindi non è perfettissimo, no? Cioè non ha avuto la correttura delle bozze, capisci come Devarim. Sì. Era un prodotto così. È molto bello invece. Molto così, ecco, personale, che io veramente lo do solo, ecco, agli amici, era un segno così, invece di amicizia ho aggiunto all'ultimo momento, e mi fa piacere che ti sia piaciuto. Sì, perché poi è un po' una storia, perché inizia con la poesia La linfa, poi Il cacciatore, e poi Il sogno, e poi finisce con Il tu. E per me questa è un po' una storia, se vuoi, una storia d'amore, perché è l'amore come linfa vitale, il cacciatore, l'uomo che caccia la donna, poi c'è il sogno, quindi comincia a fantasticare su questa donna, e quindi le emozioni, l'amore, e il tu come finale, che è la conoscenza. E infatti tu, guarda, è molto bello, perché... Ma sai che io non avevo visto questo filo qua? Io invece carino. Sì. Un piccolo romanzo di note. Senti, concentrato. Tu ce l'hai, vuoi leggerci una poesia tratta, o avevi pensato a qualcosa di diverso? Dunque, allora io in realtà non avevo pensato a prendere da quel libricino lì. Posso leggere anche in tedesco? Sì, certo. Ecco, allora leggerei una cosa che è nata benissimo, proprio, così poi ci salutiamo, va bene. Recentissimamente, praticamente ieri. Ah, ci picchia, è proprio il battesimo. Sì, è proprio un vero battesimo. E si chiama Der Stern, ecco la stella. Schon heute funkelt der erlösende Stern im Riss der Geschichte, von wurzellosen Wörtern umhüllt, wie Ziegelsteine auf den Himmel deuten, eines dicht neben dem anderen und doch vom anderen so fern. Kein Licht kommt zum Licht am Fuße der Menschen. Im weißen Stein brennt das eine Wort, so wie die Antwort. Ja, die Jetztzeit ist reif. Sie reitet uns entgegen schon heute. Bene. Da che cosa nasce questa poesia? Guarda, è nata così da sola, mi è venuta questa immagine di, forse a seguito di letture, di questa idea di questo tempo presente, no? Di questa Jetztzeit, tempo di adesso. E ritorna comunque anche qui il concetto della parola, no? Della parola che qui diventa una stella salvifica, che così nelle fessure della storia, no? Avvolta in parole senza radici, che sono come dei mattoni verso il cielo, uno vicino all'altro, eppure così lontani. Nessuna luce nasce, viene alla luce, e invece ai piedi, adesso sto un po' raccontando, invece ai piedi degli uomini c'è una pietra saggia, nella quale brucia l'una parola e anche la risposta. Sì, il tempo è maturo, ci viene incontro galoppando già adesso. Quindi l'ho tradotta un po' così. Molto bello. Diretta, diciamo. Grazie. Senti Cristina, io direi... Beh, ti lasciamo a questo punto perché il tempo è passato, è incredibile di come passi veloce. E così abbiamo chiuso l'intervista con questa bellissima poesia e spero presto di leggerla in qualche ex libris o qualche altro collezione. E l'invito chiaramente ti potrai riascoltare perché caricheremo, anche se i tempi sono un po' lunghi perché tecnicamente complesso, la puntata sul podcast di Radio Alma. E per darti la possibilità poi di salvarti la puntata e di riascoltarla e di inviarla magari ai tuoi amici. Senti, ti ringraziamo e ringraziamenti da parte di tutti, anche di Gentian che è in regia. E niente, un invito a risentirci e a tenere i contatti con la radio e con me, con lo staff, se ti farà piacere. Assolutamente, sono io che vi ringrazio per questo. Bene. E continua a scrivere sul tuo blog perché lo visiterò e andrò a leggere anche gli altri simboli. Grazie Cristina, grazie. E un bacio anche a tuo figlio Federico, grazie mille. Grazie, grazie. Ciao, un bacio anche a voi. Ciao. E buon lavoro. Ciao, grazie cara. Ciao. La risata eclatante del vostro amico Claudio. I cattivi gusti musicali di vostra cugina vi mancano? Con Pay & Go International rimanete in contatto con i vostri cari. Chiamate ed inviate sms verso reti fisse e mobili in Italia a tariffa nazionale. E se diventate Pay & Go International tra il 20 novembre e il 31 gennaio 2009 potrete chiamare a metà prezzo fino all'estate. In più riceverete un minuto di chiamata gratis verso Proximus per ogni minuto di chiamata verso il vostro paese preferito. Informazioni o condizioni su proximus.be/international o in uno dei nostri punti vendita. Proximus. Così tanto, così vicino, insieme con Belgacom. Buonasera cari amici, eccoci di nuovo sull'onda 101.9 di Radio Alma con la tela sonora. Abbiamo salutato la nostra amica Cristina Unterberger e i suoi libri Devrim e quattro poesie e adesso abbiamo l'onore di avere con noi, perché è un onore, Gianni De Martino e il suo libro L'interprete delle passioni. Gianni, sei con noi? Sono con voi, buonasera. Ciao, allora innanzitutto grazie per aver accettato questa offerta della tela sonora e diciamo non ho ancora parlato del libro di questa sera, quindi ho semplicemente detto che si tratta dell'interprete delle passioni di Ibn Arabi ed è un libro tradotto, che tu hai tradotto, a cura di Roberto Rossi Testa, e quindi è il tuo nome Gianni De Martino. Allora io questa sera è particolare perché abbiamo parlato di Kabbalah nella prima parte e ti lasciamo l'onore di parlarci di questa bellezza, perché io ho letto il libro, è di una bellezza veramente quasi mistica, se si può dire, e l'esaltazione quindi della figura femminile, la religiosità, se si può dire così, e anche l'affermazione del posto del femminile nella civilizzazione islamica. Quindi sono tutti temi che mai come adesso fa piacere ascoltare, perché direi che c'è anche tanta ignoranza in giro o anche non conoscenza, intesa come non conoscenza, di quello che è la figura femminile nel Corano e soprattutto dell'Islam. Allora, io ti lascerei il microfono, quindi libertà assoluta da dove vuoi incominciare, e soprattutto però non scordarti del perché ti sei affezionato e quindi ti sei lanciato in questa impresa. Sì, si tratta della versione inglese, sì, del libro di Ibn Arabi, L'interprete delle passioni. Per la verità è stato tradotto dall'inglese da un poeta, Roberto Rossi Testa, e questo impreziosisce la traduzione, anche se non è fatta direttamente dall'arabo. Sì. Cosa dire? Ibn Arabi è vissuto tra il 1165 e il 1240 a Murcia, in Andalusia, ed è considerato un mistico, come dicevi tu, un rivificatore della religione. Da altri invece è considerato un distruttore. Perché? Perché mette l'accento sulla spiritualità. Nacque in Murcia e ha viaggiato tantissimo, è sepolto, attualmente è sepolto in Siria. Questo poema, L'interprete delle passioni, fu composto alla Mecca e si rivolge a una donna conosciuta alla Mecca, una donna, scrive nello spazio della sua assenza, scrive dopo anni, e rievoca questo incontro, e la donna, a causa della sua bellezza, diventa un tramite per il divino. È qualcosa, come dicevi anche tu, piuttosto insolito, perché l'Islam sembra oggi una specie di monumento antifemminile. Infatti. Invece no, insieme c'è non solo, ma soprattutto in questi giorni, con la strage dei fondamentali dei terroristi, che si dicono islamici, che uccidono in nome di Dio, l'Islam viene percepito come una specie di strategia politica internazionale, oltre che una religione dell'ascetismo più forsennato e un monumento antifemminile. Però insieme a questo Islam che occupa la scena, l'Islam esistono molti Islam con forme, culture, contenuti diversi gli uni dagli altri, e poi in millenario conflitto tra di loro. Fra questi c'è un Islam che io dico un Islam desiderante e amoroso, che è un Islam certo minoritario, che però si esprime nella memoria collettiva dei popoli quando riescono a sfuggire al discorso sacrale del potere. È un Islam che si esprime nelle speranze di una vita più libera e più felice, di una gioventù arabo-islamica in piena effervescenza, e nelle espressioni artistiche popolari, di natura corporea, la danza, la musica, oltre che in opere come appunto Le Mille e Una Notte, che tra l'altro per un certo periodo è stato vietato in Egitto, e in sublimi trattati di mistici appunto come Ibn Arabi. Il tuo libro si apre con questa figura di questa dama dal volto risplendente, flessuosa e profumata, che emana una fragranza come di muschio in briciole. ondeggiante sì. D'ebbrezza come i rami, come una seta pura, scossa dal vento, fresca, a cosce formidabili, simili a enormi dune. Quindi, sì, sì. Se vogliamo, ho questo passaggio, è molto, molto bello, perché lui conobbe questa donna a 37 anni, quando si recò chiamato alla Mecca, chiamato da una irresistibile voce, no? Come proprio un ordine, e conobbe questa donna per la prima volta. Nizam si chiama la donna. Nizam, sì, occhio dello splendore. Occhio dello splendore. Del sole. Ma Gianni, perdona la domanda, quindi tu parli arabo? No, io parlo un po' d'arajat, po' il dialetto marocchino. Ho capito. Non parlo l'arabo classico. No, perché ci sono veramente dei riferimenti, cioè io mi immagino, perché studiare le lingue orientali e avere un libro come il tuo, come l'interprete delle passioni, sia molto importante, perché vicino ad ogni parola c'è la traduzione, quindi è veramente una ricerca. E questa parola effettivamente tu la ricerchi all'interno della poesia. E ho visto che hai messo... Sì, ma è proprio quello che fa Ibn Arabi. Ecco. Contrariamente a quelli lì che credono che la verità sia nella lettera, sì. Ibn Arabi ha fede nella parola. C'è un versetto del Corano che dice: solo Dio sa cosa significa la sua parola. Cioè, Ibn Arabi interpreta e usa anche la Kabbalah, usa tutto l'armamentario del suo tempo, no? Che poi è il Medioevo. Insomma, siamo nel 1200. 1200. E quindi in un certo senso anticipa paradossalmente la psicoanalisi. Se è vero che l'inconscio è strutturato come un linguaggio, attraverso l'analisi, l'interpretazione della lingua, fin nei radicali, fin nelle radici, è un po' il precursore della psicoanalisi, che dà tanta importanza alla parola, no? Mm-hmm. C'è anche un altro verso nella 18ª canzone, quando dice: fermati alle dimore, piangi sulle rovine e alla battuta abitazione, chiedi gli amanti dove sono i loro cammelli dove sono andati. Questo è sono dei come dire, delle convenzioni della poesia araba. Si deve sempre parlare di rovine, di cammelli, di deserto e di acqua, di cose che ritornano nella poesia araba, in lingua araba. Perché insomma è nata nel deserto, no? Tra i cammelli, le tende, certo. Le spade. E poi quello che mi piace è sempre questo riferimento anche all'acqua fresca che ridà la vita, che se vogliamo è di un'attualità incredibile. Senti, prima con Cristina abbiamo parlato di Dante. Di Dante. Sì. E io vedo che tu subito all'inizio, nella tua prefazione, e dai un po' come se questa Nizam fosse la Beatrice del nostro poeta, e se vuoi mi farebbe piacere leggere proprio il passo, perché mi piace molto, se tu sei d'accordo. Allora, nel tentativo di dissipare ogni possibile equivoco, rivolgendosi alla ristretta cerchia dei sapienti del suo tempo, che avevano cominciato ad accusarlo di aver composto poesie d'amore sensuale e minacciavano conseguenze legali, Ibn Arabi fu indotto a scrivere in fretta prima di partire da Aleppo e rifugiarsi in Siria, vista l'aria che tirava, un lungo commentario alle canzoni a proposito della beneamata Nizam, la sua Beatrice. Per mostrare che le immagini amorose dei poemi, così come la figura femminile centrale e dominante, la sua Beatrice, erano di fatto allusioni, si fa interprete della passione, mobilitando il formidabile arsenale delle conoscenze del suo tempo, religiose, filosofiche, metafisiche, mitologiche, ermetiche, cosmologiche, alchemiche, e decostruendola con un metodo che oggi definiremmo ermeneutico e fenomenologico, anticipando addirittura la psicoanalisi. Ed ecco che ci ritroviamo quindi a quello che tu dicevi. Quindi, ma c'è anche molta ironia in questi commenti, no? Sì. Lui viene accusato di aver scritto poesie sensuali. Sì. E nella spiegazione ai passaggi erotico-mistici contenuti nel testo, usa la sua intelligenza duttile anche con molta ironia e con molta finezza. Comunque è interessante come attraverso, come tu dici nella tua prefazione, il tema dell'amore per il Dio che attrae viene sviluppato il tema della conoscenza o marifa gnosi proprio di alcuni eletti, non frutto della ragione umana ma di una comunicazione con il divino attraverso la bellezza e i santi nomi suddivisi in nomi ora maschili ora femminili. Quindi il femminile è l'epiteto Rahman Rahim, il clemente, il misericordioso. Quindi anche qui una figura femminile che fa da tramite, che è misericordiosa, che è purificatrice, un po' come la nostra Beatrice, oppure qualcosa di diverso? Beh, hai toccato degli argomenti, andiamo con ordine. Sì. Questo è il secondo aspetto, diciamo, del libro, cioè è di natura storico-filologica. Questo è un interrogativo sollevato dal poeta Roberto Rossi Testa, perché è lui che l'ha tradotto dall'inglese, no? Sì. Quando dice se e quanto Ibn Arabi e il suo mondo, indipendentemente da possibilità di contatto, di passaggio, possono essere davvero stati dei precursori dello stilnovismo in generale, di Dante in particolare. Come da parecchie fonti e con varia fortuna si è sostenuto, è un dibattito che dura da anni questo qui, i contatti tra lo stilonismo, tra Dante e Ibn Arabi. Per quanto riguarda l'altra questione, quella del femminile, in effetti il termine Rahmani Rahim, arabo, classico, sì. che viene dal radicale RHM, R-H-M. Era un termine strano, che sembrava strano anche agli arabi del suo tempo, lo dice lo stesso Ibn Arabi, cioè ci si è interrogati molto sulla presenza del femminile nell'Islam, nella religione, a parte vabbè, gli iraniani, Fatima, eccetera. Si può dire che nel radicale RHM, che noi traduciamo il clemente, il misericordioso Rahmani Rahim, c'è l'idea di un amore viscerale, cioè letteralmente si potrebbe dire uterino. Uterino, sì. Utero. E quindi c'è una connotazione femminile in questo amore che collega creatore e creatura. Quindi è la femminilità di Dio, insomma. Un aspetto femminile del divino, che non ha sesso naturalmente, no? Certo, è entrambe le cose. Però nella lingua, sì. Non nella lingua, però se vogliamo è anche, in fin dei conti, Dio attraverso, nella nostra religione, attraverso Maria si è engendré, quindi si è incarnato e ha dato la luce, si è mostrato agli esseri umani con il figlio Gesù. Quindi perché no? Se alla fine andiamo sempre a scavare un po' gli stessi argomenti e, come dicevamo invece prima con Cristina, ad ogni religione, ad ogni pensiero c'è una manifestazione tramite un segno di quello che è la propria cultura e la propria conoscenza, e quindi perché no? Poi i temi sono sempre quelli, sono rappresentati in modo diverso. Sì, ci avventuriamo nella spiritualità, nel campo della spiritualità, della metafisica araba, un argomento molto molto complesso. Diciamo così, in sintesi, che attraverso la percezione della bellezza, e quindi questa è un'idea platonica, perché Ibn Arabi è chiamato anche figlio di Platone, no? È un'idea platonica. Attraverso la bellezza ci si eleva, si percepisce la bellezza del divino, quindi le forme riflettono come una specie di vetrata, come una specie di le vetrate gotiche, no? Riflettono la luce del divino, e questo è nel creato, in ogni creatura, e in particolare nella donna, nella bellezza della donna. Vabbè che poi se i poeti omosessuali invece dicono che è la bellezza del ragazzo, certo, e ci sono dei poeti arabi, cioè c'è tutta una scuola che prende ad esempio Giuseppe, che è il prototipo della bellezza. Nel Corano, però sono stati tutti accusati di essere blasfemi. Figuriamoci. Invece più vado avanti nella lettura di questa l'eccedenza mistica, e veramente devo dire che l'analisi non è completa, è di più, è vastissima, è infinita. Poi menzioni a un certo punto, Rumi e Hafez, che mi sono molto cari, anche se li conosco poco, però piano piano mi ci sto avvicinando. Jalal ad-Din Rumi? Sì, perché lo... Mevlana. Infatti, lo menzioni a pagina, all'inizio, proprio quando parli proprio del bel Giuseppe, il prototipo, sì. La figura del bel Giuseppe. E poi, senti, ma raccontaci ancora, perché vai proprio, a un certo punto hai detto, ci avventuriamo nel metafisico, ma avventuriamoci, perché no? In fin dei conti sei a Radio Alma, la tela sonora, ed è un momento particolare, se non cogli l'attimo, oggi quando è che ne parliamo? Se vuoi, non ti spingo a fare qualcosa che non vuoi fare. Sì, insomma, è l'aspetto, diciamo, esoterico della religione. Ibn Arabi crede, siamo nel campo della credenza, all'unità delle fedi, delle religioni. Però ci crede non dall'esterno, ma dall'interno di un'esperienza che possiamo chiamare ipernormale, dall'interno di un'esperienza mistica. Quindi siamo su un altro piano. E per questo piaceva molto agli hippie. La Beat Generation. Durante il periodo psichedelico, il viaggio in Oriente, alcuni cercavano i guru orientali, altri si interessarono al sufismo. E quindi ti interessi, è interessato anche per questo motivo? Perché... Sì, anche per questo motivo, perché in questi sistemi, per esempio nel buddismo come nel sufismo, si trovavano, per così dire, le mappe, le carte delle esperienze psichedeliche. Okay. Non so, per esempio Ginsberg o Timothy Leary si riferivano al libro dei morti tibetano, altre persone invece si sono orientate verso il sufismo, altri verso l'induismo, cioè, perché nella cultura orientale, nelle culture orientali ci sono le mappe di queste esperienze interiori, cioè il regno dell'immaginazione, che per noi è ridotto a nient'altro che a fantasia. Sì. È connesso alle radici del reale. Infatti Ibn Arabi postula uno spazio intermediario tra l'apparenza e il mondo dello spirito, che è il mondo dell'immaginale, il mondo intermediario, al-Barzakh, un mondo intermedio in cui le forme sono idee, le idee diventano forme, un mondo immaginario, un po' come nell'immaginazione attiva, gli archetipi di Jung, se vuoi. Mundus imaginalis archetipus, traduce Henri Corbin, che è uno dei maggiori studiosi di Ibn Arabi. Io poi leggo una cosa, un trafiletto: è sufficiente per te sapere che queste apparizioni sono i riflessi delle tue proprie forme pensate. Ecco, questa è una frase del bardo Todol. Ecco, ma cos'è? Una frase che si ripete al morto quando è disincarnato, quando attraversa quello che nel misticismo sufi si chiama Barzakh. Barzakh. Barzakh è un termine coranico, è un mondo intermedio. Ma ha a che vedere con il potere dell'attrazione, quindi col fatto che noi in qualche modo... È il mondo post-mortem, diciamo. Post-mortem, ma è soltanto post-mortem, quindi? Sì. Ok. Però si hanno... gli oggi possono farne l'esperienza in vita. Ah, quindi è possibile. Sì, perché è sempre presente. Ok. E senti, invece, sugli effetti dell'amore. Qui a un certo punto si parla di l'emozione amorosa. Kafir al-Asfak, non so se l'ho letto bene, di Ibn Arabi. Si prova oggi un'impressione contraddittoria, la curiosità dell'autore. Il fatto di immaginare, quindi affermava di poter ardere senza bruciare, immaginava se stesso immaginato da un dio assolutamente altro. Non so, vuoi magari elaborare su questo concetto, oppure è troppo... ci vorrebbe troppo tempo e non è il momento. No, sai, noi noi abbiamo tradotto il libro Interprete delle passioni. Sì. Il termine Ashraq in arabo è la passione ardente. Ok. In arabo esistono, credo, un centinaio di vocaboli per dire amore. Bene. E quindi il fuoco è un'allusione alla passione amorosa, no? Bene, perfetto. Quindi ardere senza bruciare, no? È una... Non si può. Una metafora dello stato amoroso. Ok, senti Gianni, noi praticamente abbiamo ancora un minuto, quindi vuoi lasciarci un qualcosa che ci ricorderemo per sempre, un messaggio sull'interprete delle passioni? Perché dovrebbero leggerlo i nostri amici radioascoltatori? Ma perché è bellissimo il testo, ed è tradotto da un poeta italiano, da Rossi Testa, anche lui un poeta, e questo credo che fa l'interesse del libro. Bene. Perché esistono la traduzione inglese del Nicholson, sì. Ma Roberto Rossi Testa è riuscito a tradurlo molto bene in italiano. Bene, allora ti ringraziamo e diciamo che è la seconda volta che partecipi a Radio Alma. Sì, e sì, ci sì. Sarà sicuramente una terza, perché l'interprete delle passioni è talmente vasto che riusciremo sicuramente a riparlarne magari. Ho stampato parecchie cose dal sito, sono andata un po' a leggermi tutte le cose del tuo blog e ti ringrazio per quello che hai scritto proprio sul blog oggi. 28 novembre. Del libro di Mustafa Safwan. Peccato che non abbiamo tempo, perché potevamo. Perché il mondo arabo non è libero. Infatti. Politica della scrittura e terrorismo religioso. Bravissimo. Allora, il mio è un invito a ritornare alla tela sonora con quel libro lì e con quello che tu hai scritto oggi, 28 novembre 2008. Gianni, ti ringraziamo, un grande abbraccio e un presto. Anche a voi. A presto allora con il libro di cui parli nel tuo blog oggi. Un bacio, ciao. Bene, cari amici, ci salutiamo perché la tela sonora si è conclusa oggi 28 novembre. Vi invito ad andare sul blog veramente di Gianni De Martino, in Google lo trovate subito, e a visitare anche il blog di Cristina Unterberger, www.mylifetree.it. oppure l'albero delle parole, blogspot.com. Sono due poeti veramente straordinari. Oggi abbiamo quindi visitato un po' la Kabbalah e anche il misticismo e il sufismo. Un ringraziamento a tutti voi che siete sempre alla